l'incontro di ieri con il ministro dell'economia e delle finanze non è andato bene perché non c'è stato spazio di trattativa, il taglio fiscale è insufficiente, comunque non proporzionato all'intervento che si fa in favore delle imprese e in ogni caso riguarda i redditi medio e medio alti, mentre nessun intervento è previsto per i cosiddetti incapienti o per i redditi delle fasce basse. Questo è un po' il segno di tutta la manovra di bilancio, che anziché utilizzare le risorse pubbliche per ridurre distanze, disuguaglianze, le fratture che si sono determinate anche in questi due anni di pandemia, invece utilizza e continua a utilizzare le risorse per alimentare queste distanze e queste differenze. Noi riteniamo che la manovra di bilancio vada cambiata in profondità e che vada aperta una trattativa vera, come non è stato fino ad oggi, con il sindacato e con il sindacato confederale. E quali saranno le modalità con le quali domani si avvierà la manifestazione, l'iniziativa? Domani saremo in Piazza dell'Unità dalle 10 alle 13. Ci saranno interventi di delegate, attiviste e attivisti che vivono le condizioni materiali di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese o ha difficoltà a utilizzare servizi e welfare, la manifestazione sarà conclusa dal segretario nazionale della UIL Proietti. E quindi questa potrebbe essere solo la prima di una serie di iniziative a livello nazionale? Di sicuro CGIL e CISL UIL non si fermeranno fin tanto che non avranno cambiato i contenuti di questa manovra di bilancio e non avranno avviato una discussione seria sulle grandi riforme che riguardano lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Non siamo assolutamente soddisfatti di quella che è la manovra di questo governo. Noi abbiamo presentato già a suo tempo una piattaforma come sindacato, non è stata presa in considerazione nelle parti principali, ovvero la riforma del sistema pensionistico, la riforma del sistema fiscale. Ieri sera abbiamo avuto l'ulteriore riprova di come la può pensare il governo rispetto a quelle che sono le persone che noi rappresentiamo, e quindi domani è importante questa manifestazione, che non è uno sciopero, ma una manifestazione per dare un segnale, che è tra le tante manifestazioni che si sono svolte e si svolgeranno anche nei prossimi giorni nel nostro paese. Ecco, una manifestazione che avevate previsto in un altro luogo? Beh, una manifestazione che avevamo previsto in un altro luogo, il prefetto di Bologna in questo caso, perché non tutti i prefetti hanno agito alla stessa maniera, ha deciso di farci fare la manifestazione fuori dal centro cittadino, dalle mura cittadino. Per quel che mi riguarda è un errore ed è paragonare e mettere sullo stesso piano il sindacato confederale, che comunque è sempre un presidio di democrazia, un punto di riferimento per la democrazia, con altri che hanno manifestato in queste settimane nel nostro paese. Ne abbiamo preso atto, ne prendiamo atto, con questo non vuol dire che domani non faremo una bella manifestazione all'interno di una grande città come quella di Bologna. Segretario, domani una giornata di mobilitazione importante, ma è una prima tappa. Sì, una manifestazione, una mobilitazione che si inserisce in un percorso deciso a livello nazionale, una mobilitazione per riaffermare le ragioni e le proposte di CGIL e CISL UIL sulla legge di bilancio. Pensioni, fisco, lavoro, sviluppo e crescita sono sicuramente le parole chiave che sono alla base di questa mobilitazione e delle nostre richieste. Inascoltate per ora dal governo, per la stragrande maggioranza delle proposte che noi abbiamo fatto, e quindi queste manifestazioni e questa mobilitazione serve proprio per riportare al centro del dibattito del nostro paese il tema del lavoro, il tema del welfare, il tema delle persone, diciamo, che hanno pagato di più questa crisi, questa pandemia.